verso il voto. Benvenuti al punto politico della giornata. È polemica contro il leader del Popolo della Libertà, Silvio Berlusconi, che in una battuta ha proposto la sua ricetta contro la precarietà. Alessandra Schepisi. Per Berlusconi la ricetta è semplice: sposare un milionario. La propone candidamente durante una trasmissione della RAI ad una studentessa che parlava delle difficoltà dei giovani precari di mettere su famiglia. Intanto bisognerebbe che nella giovane coppia, questo è il consiglio che da padre mi permetto di dare a lei, dovrebbe cercarsi magari un figlio di Berlusconi o di qualcun altro che non avesse di questi problemi. Questo lei col sorriso che ha potrebbe anche permetterselo. Una battuta contro la quale si leva un coro di indignazione, ma gli attacchi degli avversari il cavaliere replica in serata. Poveri noi se cadessimo nelle mani di chi non ha senso humor, ma per fortuna non succederà. Stavo ridendo e scherzando con questa ragazza che avevo conosciuto prima, che era accompagnata tra l'altro dal suo fidanzato. E poi se c'è qualcuno a cui non si possono fare appunti circa il lavoro per i giovani, questo in Italia si chiama Silvio Berlusconi. Altro fronte polemico, il caso Ciarrapico. Il PDL aveva cercato di archiviarlo, ma riaprirlo questa volta è Bruxelles. Tra di noi non c'è posto per i fascisti, avverte il presidente dell'Eurogruppo Juncker. Stesso pensiero del numero uno del PPE Martins, che dice no ad ogni estremismo di destra e di sinistra. Il nome di Ciarrapico non è mai stato pronunciato a Bruxelles, replica invece il vicepresidente del PPE, il forzista Tajani, che parla di polemica che non interessa a nessuno. Berlusconi poi incontra a Roma i 1000 candidati del PDL. Mobilitatevi con il porta a porta, gli esorta, ma non nasconde le difficoltà di governare nel caso di un ritorno a Palazzo Chigi. È un'eredità davvero difficile che assumeremo e quindi siamo molto preoccupati. Ma assicura Berlusconi, non metteremo le mani nelle tasche degli italiani. Nel Partito Democratico il leader Walter Veltroni reagisce duramente. Non si può scherzare sulla precarietà, dice il segretario del PD. La soluzione che io ho proposto per combatterla è quella di un compenso minimo di almeno 1000 euro al mese. Queste parole raccontano di una lontananza, di una distanza, di una specie di separazione dall'ansia, immagino, con la quale quella ragazza ha dato voce a milioni di ragazzi italiani, a milioni di ragazzi italiani. Ma è anche il giorno in cui Veltroni lancia 12 disegni di legge qualora fosse eletto premier. Nel primo consiglio dei ministri Veltroni si dedicherebbe al fisco, altrimenti il rischio declino per il nostro paese è elevatissimo. Cioè, utilizzare il fisco per aiutare questo paese a crescere. Tutti i dati dell'economia dicono che l'Italia ha bisogno di ricominciare a crescere e per farlo ci vuole una pressione fiscale minore di quella che c'è oggi e la copertura di questa riduzione della pressione fiscale è possibile, ma ci vuole soprattutto uno Stato che aiuti la piccola e media impresa, che aiuti le imprese a stabilizzare i lavoratori che sono oggi in una condizione di precarietà e che favorisca l'occupazione femminile. Abbiamo bisogno di un fisco amico dei cittadini che intraprendono e che rischiano, di un fisco che aiuti la crescita, ed è esattamente il contenuto della nostra proposta. Ancora critiche da Pier Ferdinando Casini sulla candidatura di Giuseppe Ciarrapico nel Popolo della Libertà dopo la bocciatura dell'imprenditore Ciociaro da parte del PPE, il leader dell'UDC. Con la destra populista si può vincere, ma non si riuscirà a governare i paesi. D'altronde la disavventura sulla candidatura di Ciarrapico, la presenza di Alessandra Mussolini, sono il segno di un progetto di Berlusconi che si è spostato a destra e questo sarà molto negativo per il futuro del paese. Se anche riuscisse a vincere le elezioni, difficilmente potrebbe governare con serietà come i problemi d'Italia richiedono. E non mancano anche gli strali di Enrico Boselli dei socialisti. Silvio Berlusconi è uno degli uomini più ricchi del mondo e io francamente credo che del lavoro precario e del dramma che lo nasconde ne sappia veramente poco. Gli do un consiglio: è meglio che torni a raccontare le barzellette. Ma i problemi per il candidato premier della sinistra arcobaleno Fausto Bertinotti sono la mancanza di visibilità televisiva in una campagna elettorale dominata dal duopolio PD-PDL. Io penso che ci sia un elemento politico di distorsione in questa campagna elettorale. Il Partito della Libertà e il Partito Democratico, pure naturalmente così diversi tra di loro, concorrono nel cercare di far credere che questa partita sia una partita a due. Verso il voto finisce qui un saluto da Elisabetta Fiorito.